as you're born, they make you feel small. Per il rispetto del lavoro. Insomma, noi vogliamo il pane, ma vogliamo anche le rose. Working class hero is something to be. Salve a tutti, siamo di nuovo qui ad Il Pane e le Rose, la trasmissione dei lavoratori metalmeccanici non solo, come dico sempre. Oggi però invece di parlare di contratto nazionale, invece di parlare questioni di lotte sindacali, oggi iniziamo una serie di puntate che molto probabilmente dovremo fare per affrontare la questione del referendum. Saremo chiamati tutti quanti a votare su del referendum, che poi insomma spiegherò nelle conclusioni. Sono cinque, purtroppo quello sull'autonomia differenziata non è stato approvato. Ci sono altri cinque referendum che la CGIL ha proposto. Tra questi referendum, ve ne affronteremo un po' uno alla volta, uno dei referendum che io penso che sia molto divisivo all'interno della classe purtroppo lavoratrice, a causa sicuramente della propaganda, ma è anche una cosa normale. Non esiste, penso, purtroppo nel mondo, quando si affronta l'argomento dell'immigrazione, della cittadinanza dei figli degli immigrati, degli immigrati stessi, la classe lavoratrice si spacca. Io non sono uno di quelli che nega la realtà. Vivo in fabbrica, lavoro in fabbrica, vivo nella strada, ho a che fare con lavoratori italiani, con cittadini italiani, con lavoratori migranti, cittadini che erano immigrati, lavoratori senza permesso di soggiorno, e purtroppo questa qua è divisiva. Io chiaramente la mia posizione è chiara, io sono un comunista internazionalista, per me non ci sono confini. Figurati un po' se ci sono problematiche legate alla cittadinanza sì, cittadinanza no. E cominciamo questa serie di puntate che affronteremo sulla questione del referendum, con il referendum proprio quello del diritto della cittadinanza degli immigrati, dei figli degli immigrati, in cui si cerca attraverso questo referendum di accorciare i tempi per permettere il prima possibile, soprattutto ai giovani immigranti che vivono in Italia, di acquisire il prima possibile la cittadinanza. Ecco, abbiamo intervistato una compagna che era presente nel direttivo regionale, una ragazza figlia di immigrati, chiaramente italianissima, figlia di immigrati, che ci spiega le ragioni perché bisogna andare a votare e bisogna abrogare, insomma, la legge che prevede queste lungaggini per ottenere la cittadinanza, che ferma per molti figli e anche migranti la possibilità di essere riconosciuti come italiani. Adesso sentiremo un bellissimo pezzo e poi questa nostra compagna che è al direttivo regionale che si è svolto a Bologna, della CGIL, di varie assemblee regionali della CGIL, delle varie categorie, ha fatto un intervento. Noi l'abbiamo intervistata prima che lei parlasse e ci spiega, insomma, le ragioni di questo referendum, e parleremo anche degli altri referendum. A dopo. Adesso il Camontir, dedicato a una persona speciale, e poi sentiamo l'intervista. A dopo. Dottore, dottore, dottore, dottore, mi aiuti a capire che posso fare, mi sento male, prova a spiegare. Vivono dentro me dei sogni che la mia ragazza è un uomo e poi è mio padre, poi è una tigre, poi è una pozzanghera nera, non so di quale materia. Io inciampo e ci finisco dentro e mi ritrovo a cena della mia madre. A tavola si siede una bambina, mi guarda e poi mi dice: seria, tu sei uno dei motivi per cui io credo alla reincarnazione. Perché sei uno stronzo, perché cespugli vedo. Guardo questa tigre, si avvicina a me, ha fiutato il sangue delle mie ferite. È una tigre feroce, è la fine per me. Alla giugulare sento un morso dolce. Dottore, dottore, dottore, dottore, certe cose sono come il Natale. Un'idea che era bella a pensarci da settembre a dicembre, ma che poi mano a mano che arriva non sei più così sicuro. Certe cose sono come il Natale, certe cose come l'amore, certe cose sono meglio a parole. Certa gente vigliacca ci mette pure tutta una vita a mostrarsi per quello che è. L'altra notte sprofondavo in un mare caldo che poi diventava la metropolitana. Il binario si trasformava in un fiume azzurro illuminato dalla luna, e dalle onde salivano dei grandi alberi rossi palpitanti, e sotto tra i cespugli vedevo due occhi verdi lampeggianti. Guardo questa tigre, si avvicina a me, ha fiutato il sangue delle mie ferite. È una tigre feroce, è la fine per me. Alla giugulare sento un morso dolce. Chi ti serve davvero ti fa essere chi sei veramente, o ti mastica, ti digerisce e ti cambia completamente. Come un kamikaze che tu vuoi salvare e ti scappa di mano. Se lo provi a fermare, c'è una parte di me che rincorre ed un'altra che prova a fuggire, e si inseguono tutta la notte, tutto il tempo che passo a dormire. Poi c'è un'altra parte, quella che mi fa svegliare. Io la vedo solo se ti avvicini, tigre, e mi posso specchiare. E i tuoi occhi vedo un'altra tigre lampeggiante. Chi è sbranato e chi è che è qui per sbranare? Per tigre non ti faccio niente. Per tigre non ti faccio niente. Per tigre non ti faccio niente. Per tigre non ti faccio niente. Guardo questa tigre, si avvicina a me, ha affettato il sangue delle mie ferite. È una tigre feroce, è la fine per me. Alla giugulare sento un morso dolce. Allora, siamo qui oggi all'attivo regionale di tutte le categorie della CGIL dell'Emilia Romagna, e oggi si parlerà di referendum, e qui abbiamo Casey Odo di Dalla parte giusta della storia. Buongiorno. Ok, tu sei qui, oggi interverrai? Sì, esattamente, oggi intervengo per introdurre la tematica del referendum cittadinanza, perché ecco, come Dalla parte giusta della storia facciamo parte del comitato promotore, e attualmente stiamo anche avviando i lavori a Bologna con il comitato cittadino del referendum cittadinanza, e visto che ovviamente ci sarà anche un referendum promosso dalla CGIL, stiamo cercando insieme di fare informazione, almeno in questi primi tempi, per far presente alle persone che questa primavera si andrà a votare, perché purtroppo molte persone non lo sanno nemmeno. Certo. Dimmi un po', parlaci del quesito referendario, così facciamo conoscere, cioè invitiamo la gente ad andare a votare. Chiaramente la nostra trasmissione è favorevole andare a votare per questi referendum. Perfetto, parla del quesito che oggi, di cui si discuterà anche qui. Certo, il quesito che riguarda la cittadinanza prevede una modifica della legge 91 del 1992 per quanto riguarda il requisito della residenza. Infatti attualmente la legge prevede una residenza di 10 anni continuativi per poi richiedere, fare domanda di cittadinanza, e accettando questa modifica proposta dal referendum si dimezzerebbero i tempi, quindi da 10 verrebbero richiesti 5 anni di residenza continuativa. Il che dimezzerebbe ovviamente i tempi richiesti, però comunque a questi 5 anni si aggiungono 2, 3, a volte anche 4 anni di attesa comunque per ricevere risposta alla domanda, quindi si passerebbe da 13-14 anni complessivi che servono per ottenere la cittadinanza in Italia, se tutto va bene, a 8-9 anni, quindi comunque si parla di tempi lunghissimi, però intanto questo permetterebbe all'Italia di allinearsi a altri paesi dell'Unione Europea che prevedono già la possibilità di fare domanda per la cittadinanza dopo 5 anni. Certo, oltre a questo ci sono gli altri referendum, sono sempre legati a questa questione, cioè noi qua c'è il sindacato, no? Sì. Il sindacato è favorevole a questo? Certo. Beh, sicuramente i cinque quesiti sono legati uno agli altri, certo. Anche perché parliamone, cioè se in Italia attualmente ci sono, lo sappiamo tutte e tutti, ci sono tantissimi problemi legati al mondo del lavoro, della precarietà, queste problematiche vengono esacerbate quando si parla di persone che hanno il permesso di soggiorno e non la cittadinanza italiana, perché avere un permesso di soggiorno significa dover sottostare a certe condizioni, molto spesso si accettano delle condizioni lavorative precarie o comunque che non sarebbero più accettabili nel 2025. Questo perché? Perché si deve avere un reddito minimo per poter ottenere e rinnovare il permesso, per cui insomma se le condizioni lavorative del cittadino, della cittadina italiana media sono già precarie e non in linea con i nostri tempi, pensare alle cittadine e ai cittadini che hanno il permesso di soggiorno e non la cittadinanza, questo è ancora peggio. E, insomma, come dimostrano varie statistiche comunque sulle condizioni lavorative odierne. Ecco. Quindi sicuramente i cinque quesiti sono legati uno agli altri, anche per quanto riguarda il mondo dei giovani, perché ricordiamocelo che tantissimi studenti e studentesse in Italia non hanno la cittadinanza e nonostante crescano qui, alcune siano nate qui proprio, oppure arrivino qui comunque in età più avanzata, comunque sono, diciamo, hanno lo stesso percorso di vita dei propri compagni e compagne di banco, però si ritrovano a dover sottostare a delle condizioni peggiori, sia per quanto riguarda il mondo dell'istruzione ma anche dopo il mondo lavorativo, perché comunque insomma tutto si ripercuote in tutti gli aspetti della vita, ecco. Cosa diciamo a chi, se io lavoro in fabbrica, la nostra trasmissione è ascoltata dai lavoratori, ci occupiamo di lavoro in fabbrica, quando noi portiamo questi referendum chiaramente c'è qualcuno che dice ah ma però dare la cittadinanza agli stranieri è qualcosa che si sente, li destabilizza, perché la propaganda di estrema destra in Italia, chiaramente in tutta Europa, va dall'altra parte, no? Questo referendum va se pensiamo a Trump, la politica sull'immigrazione e tutto il resto, a Meloni, si va contro questo modello che ci vogliono imporre, in cui sei straniero, dunque non hai nessun diritto, devi essere messa, devi rimpatri, no? Abbiamo visto cosa è successo con l'FD. Cosa gli rispondiamo alle persone che dicono che dando la cittadinanza agli stranieri, cioè, non si peggiora la sicurezza, anzi? Beh, io direi innanzitutto unitevi, uniamoci, perché ci ritroviamo di fronte a un momento pessimo per quanto riguarda lo stato dei diritti in Italia, ma in Europa e in tutto il mondo, e l'ultima cosa che dobbiamo fare è arrenderci alla paura. Insomma, la paura dell'altro è qualcosa che ha sempre caratterizzato gli esseri umani dall'inizio dei tempi, in questi ultimi anni forse ancora di più, e questa paura dell'altro porta agli estremismi che portano alla violenza. Quindi insomma, non arrendiamoci alla paura, e l'invito che faccio è quello di guardarsi intorno e guardare le persone che si hanno intorno, i propri colleghi, colleghe, i compagni di banco dei propri figli, i propri amici, perché molto spesso non ci si rende conto che queste persone arrivano da altri paesi, queste persone non hanno la cittadinanza italiana, devono affrontare tutto ciò che consegue non avere la cittadinanza italiana, nonostante vivano qui da anni, nonostante contribuiscano alla crescita dell'Italia, nonostante mettano le proprie risorse, il proprio tempo a disposizione dell'Italia. E quindi l'invito che faccio è quello veramente di guardarsi intorno e cercare di capire la condizione di vita delle persone, proprio le persone care, cioè non guardiamo neanche troppo avanti, perché insomma le statistiche parlano da sé, le percentuali di persone migranti in Italia sono altissime, per cui veramente basta guardarsi intorno e rendersi conto del proprio privilegio, che alquanto la propria condizione, per quanto possa essere diciamo pessima o si pensi che possa essere peggiore di quello che dovrebbe, comunque è migliore rispetto alle persone che non hanno la cittadinanza. Quindi insomma, veramente vi invito a guardarvi intorno. E un'altra cosa è il fatto che questo referendum è un referendum, quindi cioè non si tratta di una decisione presa da pochi rinchiusi in un palazzo, si tratta di una decisione presa dal popolo, da tutte e tutti noi. Quindi a maggior ragione bisogna alzarsi, andare alle urne, anche per dire no, cioè va benissimo, però bisogna andare alle urne per esprimere la propria opinione, perché noi siamo chiamati e chiamate a decidere sul futuro dell'Italia. Non si sta decidendo soltanto sulle persone che non hanno la cittadinanza, ma si sta decidendo se l'Italia del futuro, l'Italia fra 10 anni, fra 20 anni, sarà un'Italia più giusta, un'Italia più reale, che accetta lo stato delle cose, perché noi esistiamo, cioè le persone senza cittadinanza sono già qui, sono già italiane. Si tratta soltanto di riconoscerci. Quindi, insomma, veramente alzatevi e fate uso di questo strumento che ci dà la Costituzione, uno dei pochi, anzi l'unico in Italia, strumento di democrazia diretta, per cui anche solo per questo bisogna andare a votare. Io voglio sottolineare che il Panele Rose è assolutamente favorevole a questo referendum, inviterà la gente ad andare a votare. Siamo contro la Bossi-Fini, che riteniamo una legge che va contro i lavoratori italiani addirittura. Esatto. E per questo noi abbiamo ho cercato di farti spiegare il più possibile, perché gente che ascolta in radio, c'è anche gente che non vuole andare a votare, che ha paura. È stato bello quello che tu hai detto e noi siamo con te. Grazie mille. Vi aspettiamo alle urne. Il prossimo pezzo si chiama Fatta là. È la cosa che viene detta a tutte le persone che vengono dall'Africa e dall'Asia qua a cercare un po' di legittima felicità dopo che la civile Europa gli ha devastato i loro paesi di provenienza. L'unica cosa che viene detta è fatta là. Fatta là in napoletano significa vattene. Fatta là, perché qua non c'è posta. Fatta là, a casa mia non c'è posta. Spazio vitale, identità razziale, che tutto quanto a te non è l'orgoglio nazionale. Fatta là, perché qua non c'è posta. Fatta là, a casa mia non c'è posta. Fatta là, show, non c'è fama che ricetta. Razza, cultura, nascita, nazione, sono diventata troppo la popolazione. Fatta là, la Germania ricce. Fatta là, fatta là, la Croazia ricce. Fatta là, fatta là, show, le Lombarde ricce. Fatta là, che c'è una volta si da puzza e fatta si da moro ne creature si non tiene mai ne panna. Chi domanda che niente e chi ottene non un dovrà. Chi domanda che niente e nessuno non un dovrà. Germania e tedeschi si entra loca, Croazia e croati si entra loca, Lombardia e lombardi si entra loca, e tutti quanti insieme dicono fatta là, perché qua non c'è posta. Fatta là, a casa mia non c'è posta. Fatta là, show, non so fa manca ricetta. Razza, cultura, nascita, nazione, sono diventata tra popolazione. Fatta là, la Germania dice fatta là. Fatta là, la Croazia dice fatta là. Fatta là, show, le lombarde dice fatta là. Che c'è una foto, si da puzza e fama, si da morra ne creatura, si non tiene manca e panna. Diciamocelo noi, fatta là, a questo regime in doppio petto. A questo regime fatto di televisioni e di luci della ribalta. Sappiamo bene, con noi non useranno né manganello né olio di ricino, sicuramente. Hanno delle armi più potenti, 5 televisioni e 4 giornali. Dice il mancello lui fatta là. Fatta là, fatta là, fatta là, che questa nuova civiltà. Non c'è sta spazio, manca un po' di diversità. Tutto inserrato anche a costo di sparare. Rinda su serraia, ma uno culturale. Nord e sud, sì, ma tutto quando è uguale. Un mezzo sul sistema che ci ha fatto tutto schiava. E allora è venuto un momento, ci ha mischiato a struire una società che non dice fatta là, là, la teca non c'è posta, fatta là, là, a casa mia non c'è posta, fatta là, show. Non so può manca ricciottare. Razza, cultura, nascita, nazione. Sono diventata drago, rap, popolazione. Fatta là, la Germania ricce, fatta là, fatta là. La Croazia ricce, fatta là, show. Lega Lombarda ricce, fatta là. Che c'è una volta, si, da buzze, fama, si. Da moro, ne creatura, si, non viene, ma che panna. Chi ottene non un giovorà, chi danda e chi niente. E nessuno non un giovorà. Allora riesci a mangiare noi, fatta là. A tutti i razzisti, fatta là. A tutti i leghisti, fatta là. A tutti i nazisti, fatta là. Ci mangiamo veramente, dai! Fatala, fatala, fatala, fatala, fatala, fatala, fatala, fatala, fatala, fatala, fatala, fatala, fatala, fatala, fatala, fatala, fatala, fatala, fatala, fatala, fatala, fatala, fatala, fatala, fatala, fatala, fatala, fatala, fatala, fatala, fatala, fatala, fatala, fatala, fatala, fatala, fatala, fatala, fatala, fatala, fatala, fatala, fatala, fatala, fatala, fatala, fatala, fatala, fatala, fatala, fatala, fatala, fatala, fatala, fatala, fatala, fatala, fatala, fatala, fatala, fatala, fatala, fatala, fatala, fatala, fatala, fatala, fatala, fatala, fatala, fatala, fatala, fatala, fatala, fatala, fatala, fatala, fatala, fatala, fatala, fatala, fatala, fatala, fatala, fatala, fatala, fatala, fatala. Noi non lo diciamo ai lavoratori migranti, ma lo diciamo a tutti quelli che stanno soffiando sul fuoco e vogliono creare razzismo, vogliono creare divisioni da tutte le parti. E per questo abbiamo intervistato Casey Oddo, dalla parte giusta della storia, che fa parte del comitato promotore per il referendum sull'astensione della cittadinanza. Abbiamo ascoltato questa compagna che ci ha spiegato le ragioni per cui bisogna andare a votare assolutamente, bisogna che questo referendum raggiunga il quorum, tutti devono andare a votare. Ricordiamo a tutti che i referendum sono 5, ricordiamo che il primo, questo è l'ultimo dei referendum in realtà, partiamo dall'ultimo, gli ultimi saranno i primi, speriamo. Al primo posto c'è lo stop ai licenziamenti illegittimi, cioè abroghiamo il cosiddetto Job Act di Renzi sulla parte dei licenziamenti, purtroppo solo quello. Il Job Act non è solo quello, poi qualche volta ne parleremo meglio del Job Act, in realtà il Job Act ha mille sfaccettature, però ritorniamo a quello che c'era prima, speriamo l'articolo 18 cosiddetto. Estendiamo il secondo referendum, va a abrogare quello che c'è oggi per le aziende sotto i 16 dipendenti, i lavoratori delle piccole imprese, vogliamo che venga abrogata la legge che c'è oggi, che ritornino, ci siano più indennizzi per questi lavoratori, certo non nell'articolo 18 purtroppo, chi propone il referendum non vuole questo, ma comunque che sia anche lì in caso di licenziamento illegittimo sia molto più costoso. Oggi parliamo di 6 mensilità, dunque possono fare quello che vogliono i padroni delle piccole aziende. La riduzione del lavoro precario, si vuole abrogare quello che c'è oggi, ossia non c'è l'obbligo di causale, noi vogliamo che ci sia l'obbligo di causale per il lavoratore a tempo determinato. E poi c'è quello che per me sta molto a cuore, spero di fare una puntata su questo il prima possibile, sulla la problematica di abrogare le leggi che c'è oggi, in cui ci sono molte meno responsabilità. Negli ultimi anni purtroppo il padrone, il committente degli appalti, colui che prende l'appalto, è sempre meno responsabile di quello che accade nel subappalto. Questo è sbagliato e per questo bisogna che questa norma venga abrogata, per creare invece più responsabilità per chi sceglie di appaltare, il padrone che sceglie di appaltare alcune lavorazioni, alcuni prodotti, alcune tipologie di lavoro nella propria azienda. Ecco, poi c'è l'astensione della cittadinanza. Ora, io dico ho detto anche nell'intervista, io sono sempre stato contrario alla Bossi-Fini, e qui voglio raccontare un episodio che spiega benissimo, e lo spiega a tutti, e quando mi trovo con un razzista, con un fascista che mi dice ma sì, ma è giusta la Bossi-Fini, io gli racconto un fatto che ho vissuto sulla mia pelle. Quando entro la Bossi-Fini, nelle aziende di Bologna moltissimi immigrati furono assunti in massa, in aziende in cui in realtà gli immigrati c'erano pochissimi, per non parlare della logistica. E andai da un lavoratore appena assunto, immigrato dall'Africa, dalla Costa d'Avorio, e gli chiesi di farsi la tessera, che doveva scioperare. Ho visto che non aveva scioperato e gli spiegai che in fabbrica bisogna scioperare, bisogna essere iscritti al sindacato, e lui mi guardò e mi disse: io a casa mia ero iscritto al sindacato, scioperavo e facevamo manifestazioni in cui la polizia ci sparava dietro, ero sempre avanti, ma io qui ho un problema, perché se faccio sciopero e mi iscrivo al sindacato non perdo solo il posto di lavoro, ma perdo anche la possibilità di vivere in Italia, perché perdo il permesso di soggiorno e mi sbattono fuori. E lì capii la ragione perché l'avevano assunto, perché un lavoratore immigrato era doppiamente ricattato, era ricattato perché poteva perdere il posto di lavoro, ma aveva ricattato anche perché il padrone in mano aveva il passaporto, non solo il libretto di lavoro. E io lo dico sempre a tutti i lavoratori italiani: la Bossi-Fini è una legge contro i lavoratori italiani, perché nel momento in cui tu hai a tuo fianco dei lavoratori super ricattati, in questo caso tu hai meno forza e dunque si peggiorano i diritti di tutti i lavoratori, italiani e stranieri. Ecco perché bisogna che la cittadinanza sia estesa, bisogna che i figli degli immigrati abbiano piena cittadinanza, soprattutto lo dobbiamo fare per noi, ecco. Questo è il messaggio che io voglio mandare, e per questo invito lo faccio molto breve, senza estendere questa conclusione troppo a lungo. Io penso che sia stato molto chiaro. Ho parlato di un fatto reale, di quello che accade nei luoghi di lavoro, e che la colpa non è mai degli immigrati, ma è sempre dei padroni. Ecco, io vi saluto con spero che tutti quanti vadano a votare il referendum e passi, anche se per me la cosa più importante è, più che il referendum, è lottare nelle piazze, nei luoghi di lavoro, nelle fabbriche, perché i referendum spesso purtroppo non sono una soluzione, ma però adesso c'è e bisogna portarlo avanti. Alla prossima puntata, compagni. Orgulloso de estar entre el proletariato.